a te grave cagion aduce Aida. Nulla sfugge al mio sguardo, d'amor ti struggi per Adames, e Tama ti l'attendi, dei faraon la figlia e tua rivale, razza infame, aborrite a noi fatale. In tuo potere io so, io amorò tuo figlio. In poter di lei, e no, se lo bravi, la possente rival tu vincerai. Patria e trono e amor tutto tu avrai. Rivedrai le volte imbalsamate, le fresche valli i nostri tempi d'or. Cosa felice a lui che amasti tanto, tipo di mal ti vivrai gioir. Noi le ciccio i mite, le case, i templi, e la retrofano. Tra se inceppi le vergini rapite, padri, vecchi, falcioli e i tronchi d'o. Il popolo nostro, tu sei pronto già, vittoria brel. Solo a saper mi resta, qual sentiero il nemico seguirà. Patria, chi mai? Tu stessa. Col vostro furore ti stemme non va. Che fila di chiari, lutti di sangue scorrono sulle città dei vinti, vedi dai negri vortici, e levano gli estinti, stati danesi e gridano, per te la patria muore. Una larva orribile tra l'ombra noi s'abbaccia, trema le scarne braccia, oh, sul capo tuo le va. Quadrele, no, la visola, no, ti maledice. sei la schiava. Oh.